quel sudore sulla fronte è veleno per la nostra intimità. Ci si parla a sputi mentre il negozio di fiori chiude. Io non posso essere per una sera romantico. La sera sembra già vicina ed io sposto la mia energia. Quello che resta è un minuto per ricordarci che tutto è piombato in solaio. Come la polvere sulla colla. Mi riporti un giorno, Mazinga. Ci siamo mandati parole, ci siamo mandati a San Vincenzo.